un'altra manifestazione delle ragioni attive a livello fotosferico sulle facole, che forse è meglio chiamare facole fotosferiche. I mercanti hanno coniato uno slogan: essere armati per essere liberi. Temperatura critica specifica di ciascuna sostanza che separa i campi in cui si mostra para o fe critica. Ente astratto definito da alcuni postulati. Esigibile per comunicazioni extrasensoriali B. Orecchie e capaci di captare le onde sonore dell'atmosfera. C. Occhi e naso retrattili e potenziarsi per periodi di congelamento dato per l'eccessivo freddo di acqua sintetica e cibo in pillole per provvedere al nutrimento del deserto. Piante e palme nel deserto, datteri, cammelli, pozzi petroliferi, la Trans Siberiana è considerata una delle più lunghe ferrovie del mondo, ma la sua lunghezza non attraversa il moto rettilineo, bensì unisce due culture e chiamo per dirti cosa? Non mi senti? Perché? Ah, scusa, il cellulare è spento. No. Non me ne ero accorto. No. Brucia. No, non è spento, è acceso. Brucia? Brucia. È acceso. Brucia. Scotta! Brucia! Con te, non tutti con te, e poi il pappagallo viene. tutti per me. Stai zitto tu dall'altro letto, che mi impesti il naso con quegli odori che ti ficchi sotto le ascelle. Arriva il dottore. Forza, viene a visitare. Adesso sto meglio, non sono più in ospedale, c'è un sacco di gente qui. Libera, libera, libera. Tutti felici, non lo so, non ridono. Ah, perché sei sono. Questo camminare sulle nuvole che mi dà fastidio. Ah. Tutti che parlano di cose strane. Ma non capisco le loro parole. Poi non si fanno mai vedere, mi faccio. Sabbia per farli. Tutte nuvole. Quello che mi dà i nervi è che non fa mai no. Mai, mai, mai, mai. Ma non c'è più il sole. Sole. Che? Sole. Sole. Sole. No.